Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. La crisi ucraina è sempre alta nell'agenda europea e, come sapete, ormai strettamente legata anche alla questione dell'energia. A questo proposito, il commissario UE per l'energia Günther Oettinger non ha escluso che i negoziati su gas tra Ucraina, Russia e UE, sospesi mercoledì senza nessun accordo, possano riprendere domani. Abbiamo deciso che le due delegazioni, quella russa e quella ucraina, parlino con i loro presidenti e primi ministri. Questo è accaduto ieri, ha detto Oettinger, arrivando a Lussemburgo per una riunione tra i ministri, appunto, dell'area energetica. Su questa base mi attendo e mi auguro che le discussioni possano riprendere. Ecco, purtroppo però le notizie che arrivano invece sul fronte dei combattimenti nell'Ucraina occidentale sono di poco pesanti. Si parla, appunto, di nuovi attacchi. Addirittura circa un'ora e mezzo fa una nota del governo tedesco chiedeva chiarimenti circa l'ipotesi di presenza di truppe corazzate russe all'interno del territorio dell'Ucraina. Insomma, una situazione davvero delicata ancora e in evoluzione. Ora andiamo invece a notizie più tranquille, come l'accordo raggiunto tra i ministri dell'ambiente europei sul tema degli OGM, un accordo di fatto a lasciare liberi tutti, che il Consiglio dell'Unione Europea, quindi il prossimo sotto la presidenza italiana, dovrà mettere a punto. Il servizio. L'intesa infine è arrivata sul testo predisposto dalla presidenza greca. Gli stati potranno limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio. Se la Commissione e l'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, spiega il commissario alla salute Borg, dicono no a una coltivazione, sarà no per tutti. Se dicono sì, non sarà un sì per tutti. Su basi specifiche, gli stati membri possono decidere di bloccare la coltivazione sul loro territorio. Ma sono proprio le basi specifiche a scatenare il dibattito. Il testo prevede che in fase di approvazione comunitaria per la coltivazione di un nuovo OGM, gli stati membri possano utilizzare l'opt-out, cioè chiedere di escludere interamente o parzialmente il proprio territorio dall'area per la quale verrà concessa l'autorizzazione, per vari ordini di motivi. E in questo caso, la Commissione chiederà all'impresa produttrice di OGM di accettare l'esclusione di quel paese o di alcune aree geografiche specifiche. L'impresa può rifiutare, ma il paese può comunque vietare la coltivazione. Greenpeace e Slow Food condividono il timore che gli stati membri non abbiano sufficiente forza legale per opporsi alla coltivazione di OGM sul loro territorio. Non è così, però, secondo il ministro dell'ambiente tedesco, Barbara Hendricks, contraria agli OGM e convinta che ora ci siano serie basi giuridiche per l'opt-out. Non sono preoccupata da possibili controversie legali, dice. Credo che le compagnie che chiedono un'autorizzazione e sanno che la Germania o un altro paese sceglieranno l'opt-out non vorranno andare in tribunale. E poi sarà la Commissione a trattare con le compagnie, non noi. Come andrà a finire lo decideranno i nuovi parlamentari europei. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora parliamo di Europa e start-up con il fondo di 800 milioni di euro, di cui trovate tutti i dettagli, vi dico subito, su www.startupeuro.eu. Anna Marino ha chiesto a Isidro Lasso Ballestrero, capo del settore start-up della Commissione europea, di spiegare, appunto, quali sono le principali iniziative per le neonate imprese. Lo sentiamo. Il progetto más importante stiamo liderando desde la Unión Europea para aiutare los jóvenes a creare startup. Il progetto più importante che stiamo seguendo in Europa per aiutare i giovani a creare startup è Startup Europe, di cui, appunto, il sito startupeurope.eu si trovano tutte le informazioni. Facciamo una serie di eventi, bandi, concorsi per dare visibilità alle startup europee che lo meritano, perché generano ricchezza e occupazione. Tutti i giovani italiani, spiega, appunto, il funzionario spagnolo dell'UE, dice, sono benvenuti, invitati a partecipare a questi progetti. Basta cliccare sul sito, ma anche per i non giovani abbiamo iniziative e progetti. La competizione è grande perché ci si confronta con tutta Europa, ma anche la visibilità è davvero grande. L'ultimo bando ha avuto quasi 400 candidati, 12 di questi sono andati a Londra, hanno incontrato moltissimi investitori. Tutti i dettagli li ritrovate tra poco sul sito di Radio 24. Ecco, questo è tutto per Europa 24. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.